Están escuchando este especial dedicado a la agrupación Maneskin. En 2019, Maneskin inició su primera gira de conciertos de la Ivallo della Vita Tour, que incluyó fechas en toda Italia y en otros países de Europa. Ese mismo año, la banda lanzó su segundo álbum de estudio, Teatro di La Volumen 1, que también fue bien recibido por la crítica y los fanáticos, y del cual escucharemos Coraline. Dime la tua verità, Coraline, Coraline, dime la tua verità, Coraline, Coraline, dime la tua verità, Coraline, Coraline, dime la tua verità, Coraline, Coraline, Coraline bella come il sole, corriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse. Preziosi quei fili di rame, amore, portali da me. Se senti campane cantare, vedrai Coraline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. E Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, però lei sa la verità. Non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà. È freddo già, è una bambina però sente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente dirà. Non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta. Ma un giorno, una volta lei ci riuscirà. Può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma sente un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. Detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma Coraline non vuole mangiare, no. Sì, Coraline vorrebbe sparire. E Coraline piange, Coraline ha l'ansia. Coraline vuole il mare ma ha paura dell'acqua. E forse il mare è dentro di lei. E ogni parola è un'ascia, un taglio sulla schiena, come una zattera che naviga in un fiume in piena. E forse il fiume è dentro di lei, di lei. Che respiri, capirò cosa hai dentro e sarò l'acqua da bere, il significato del bene, sarò anche un soldato, ho la luce di sera e in cambio non chiedo niente, soltanto un sorriso. Coraline vuole il mare ma ha paura dell'acqua.

since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown, cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sex star, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby, I'm your David and you're my Goliath. Cause I'm the devil who's searching for redemption. And I'm a lawyer who's searching for redemption. And I'm a healer who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster who's searching for redemption. And I'm a bad guy who's searching for redemption. And I'm a donker who's searching for redemption. And I'm a freak who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster who's searching for redemption. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm the searching for redemption. And I'm a lawyer, we're searching for redemption. And I'm a healer, we're searching for redemption. I'm a motherfucking monster, we're searching for redemption. Este segundo álbum de estudio también fue bien recibido por la crítica y alcanzó el número uno en las listas de álbumes italianos. Ahora escuchemos La paura del buio. Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino di essere al circo. Su una giostra di felicità e non voglio andare giù, anche se non mi diverto più. A volte mi sento un miracolo e a volte ridicolo. Poi perdo la testa in un attimo, ma non ditelo in giro, son fuori di me. Anche quando sarò più per terra distrutto, continuerò a non avere la paura del buio. E quindi scusami, strappami i vestiti di dosso. Continuerò a non avere la paura del buio. E quindi comprami, vendimi, fammi di tutto. Sei soltanto tu ad avere la paura del buio. Noi no, noi no, io no. E preparo il mio valzer col diavolo, oh, da quando son piccolo. Vuoi darmi del pazzo, bastardo malato, io ci brinderò sopra col vino. Anche quando sarò qui per terra distrutto, continuerò a non avere la paura del buio. E quindi scusami, strappami i vestiti di dosso. Continuerò a non avere la paura del buio. E quindi comprami, vendimi, fammi di tutto. Sei soltanto tu ad avere la paura del buio. Noi no. Tu tornerai da me con l'aria stanca. Tornerai En 2022, Maneskin anunció su Mammoth Tour, una gira de conciertos que incluyó fechas en toda Europa, América del Norte y América del Sur. La banda ha sido aclamada por su estilo de rock crudo y su energía en vivo y continúa siendo uno de los grupos más populares en Italia y en todo el mundo. Están escuchando este especial dedicado a Maneskin y ahora tendremos For Your Love. Cat tonight. I wanna be stuck in your head, make you go wild. I wanna drive you to the morning light, and I wanna leave you alone in the middle of the night. I wanna be a good man and see you smile, and I wanna swim between your thighs. I wanna fuck you till you scream and cry. Maneskin escribió la canción Ventani durante su estadía en Londres en la primavera de 2020, durante los confinamientos por el COVID-19. La letra fue escrita por el líder de la banda, Damiano David. Está dedicada a su generación y a los que ya no lo son, con su alter ego maduro dando consejos que David quería escuchar de alguien mayor ahora que tiene 20 años. Abordan las ansiedades y frustraciones de sentirse como si nadie cometiera errores. La incertidumbre del futuro, de no pensar en blanco y negro, porque serás alguien si sigues diferente de los demás. Escuchemos Ventani. Ventani.

civilization, you're the king and the queen. I'm praying at your altar, if you know what I mean. Yeah, everything I've been missing, you've been serving up in your kitchen. No, I'm not even superstitious, but I'm feeling you something vicious. Yeah, it's automatic, you know I just gotta have it. I make your body a habit, you know that's some kind of magic, uh-oh. Do you wanna hold my mind? Bad things don't feel like. Yeah, do you wanna hold my mind, hold my mind, hold my mind, hold my mind, hold my mind, hold my mind. Do you wanna know what the good bad things don't feel like? Do you wanna hold my mind, hold my mind? Do you wanna long night? Do you wanna make mine? Do you wanna go once, go twice, girl? Do you wanna long night? Do you wanna make mine? Do you wanna go once, go twice, girl? Continuamos con este especial dedicado a la banda italiana Maneskin. El rock no debe limitarte. Es una cuestión de actitud, de música tocada, de instrumentos analógicos. Si nos quieren criticar porque no es puro rock, que lo hagan, porque no queremos seguir reglas, sino hacer lo que nos guste. Comentó Vic De Angelis. Ahora escuchemos Time Zone. Talking to the walls, and Liz, a friend of mine, I call you every hour just to tell you that I'm losing my mind. Now I know you're sleeping where I'm supposed to be. About the contracts that I signed, and they can say whatever. We'll be making love, I'm fucking you tonight. Now I know you're sleeping where I'm supposed to be. Thank you. El disco Rush de la banda Maneskin es, en opinión del líder de la banda, la coronación de un sueño que los ha llevado de tocar en el centro de Roma a desfilar por los escenarios más aclamados del planeta. Esos rockeros no pierden esa simpatía y socarronería tan romana. O sea, burla hecha con ironía. A pesar de que desde su irrupción acumulan cifras increíbles. 241 discos de platino, millones de seguidores en todo el mundo, premios y los elogios de bandas míticas. Además que fueron teloneros de los Rolling Stones en Las Vegas. En resumen, Maneskin continúa siendo una banda muy exitosa y popular, con una creciente presencia en el panorama musical internacional. Soy Israel Bagundi y para finalizar este especial dedicado a este enigmático grupo italiano Maneskin escucharemos de Lonely Less. Y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torture. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing. Time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. The loneliest.